Asteria, non parlate, a rimproveri vostri mal corrisponde questo ostinato silenzio. Onde che meco siete sdegnata, o voi punite al padre? Come? Esitate? Il so che non dovrei differirne l'assenso, quando propone Andronico le nozze. Voi non dovreste forse fastoso più d'un vendicato amore, ma che giova, vanai, ve lo confesso, ne lo direi se non dovessi odiarvi. Odiarmi? Ah, principessa! So soffrir dall'amante, esser tradita, la via di non amare, amor m'addita.